Roberto Corti, ovviamente retribuire all'arbitro la sconfitta della Fiorentina, ma con quel Bayern molto rimesso la Fiorentina ha fatto poco per portare a casa la vittoria e occasioni come queste in Coppa capitano di rado. Ritengo comunque vergognoso che un pachiderma, effettivamente la buona definizione, come quello, continui a arbitrare in Coppa visti alcuni precedenti. Il fatto però che il designatore arbitrale sia tedesco forse può aver influito sulla scelta di quell'ippopotamo, continua a infierire Roberto Corti. In effetti la prima cosa imbarazzante, si diceva anche prima con Fabio Tavelli, la stazza e la insomma la scarsa come mobilità rispetto alla stazza è ancora civile, però non è questo granché. Dario Barbieri scrive da San Polo Denza: ma Ovrebo, per arbitrare in Champions, ha per caso vinto un appalto della protezione civile?